GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Sono 13 le famiglie ancora senza casa a Tor Viscosa, circondato dalle impalcature il condominio scoperchiato dal vento a luglio. Crescono le nuove partite IVA in regione, più di 8.300, quelle aperte lo scorso anno, in aumento del 3,3%. Cala al 9,4% del PIL l'economia sommersa in Friuli Venezia Giulia nel 2021, sottratti al fisco 1,5 miliardi di euro. Cade in acqua e rischia di annegare un pescatore amatoriale tristino salvato dall'assideramento da 3 agenti della polizia marittima. Trieste capitale del volley al femminile con la fase finale della Coppa Italia, le 18 sotto rete le stelle Gonu e Andropova. Biathlon, la Sappadina Lisa Vitozzi, oggi ultima frazionista dell'Italia, 9 mesto, parla il suo skiman, l'olimpionico Giorgio Di Centa. 12:31, buongiorno da Dario Ronzoni e Rita Micoli. 7 mesi dopo il maltempo della scorsa estate siamo andati a Tor Viscosa per vedere a che punto sono i lavori di ripristino degli edifici danneggiati dalle tempeste di luglio. È ancora circondato dalle impalcature il condominio di Tor Viscosa, scoperchiato dal vento il 13 luglio scorso. In attesa della fine dei lavori sul tetto, 7 mesi dopo, una 40 di persone, 13 famiglie, vivono ancora in alloggi di fortuna, sfollati dal clima. Ater ha garantito casa a chi era in affitto, uno di loro è rimasto dal suocero fino a Natale e poi ha trovato locazione, ma c'è anche chi con bimbi piccoli deve sobbarcarsi i costi di questo nuovo affitto oltre alle rate del mutuo. Maria Gabriella Baldin quella sera ha perso entrambe le auto sotto i cocci, non erano assicurate, ora vive provvisoriamente in un appartamento molto umido, lo stress psicologico è forte, ci dice. 235 sfollati dal clima nel 2023 in Friuli Venezia Giulia, quando da Vaia in poi se ne erano appena 12. La maggior parte di loro ha fatto ritorno a casa in poche ore e in pochi giorni, non ancora i residenti di Tor Viscosa. Ad ogni disastro ambientale un nuovo decreto, un nuovo stato di emergenza, ma mancano norme nazionali per dare garanzie e tutele pubbliche sicure a chi perde casa per il clima, indicano gli esperti, a fronte di eventi estremi che saranno sempre più intensi e frequenti. Un esempio su tutti, esiste un contributo alloggiativo erogato dalla Protezione Civile Nazionale, ma c'è la coda in tutta Italia e questi soldi a Tor Viscosa non sono mai arrivati. Tra grandinate estive e mareggiate autunnali, il conto dei danni in regione per il 2023 ha superato il 1 miliardo di euro, poco più di 17 milioni arrivati da Roma finora, oltre 180 milioni ce li ha messi la regione. Continuano le interlocuzioni con il governo, afferma l'assessore alla protezione civile Riccardi, per ottenere fondi europei a copertura del resto delle spese sul modello Emilia-Romagna. A giorni, i 10.700 beneficiari privati, inclusi i residenti di Tor Viscosa, ultimeranno l'iter per ottenere ristori regionali a copertura fino al 45% delle voci di spesa ammissibili. Bisogna che tutti ci tuteliamo e che le istituzioni pensino a tutelare i proprietari di casa, l'appello di uno dei residenti, Massimo Montagnera. Tor Viscosa, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. E ci spostiamo sulla costa, un'altra zona devastata dal maltempo della scorsa estate con danni agli stabilimenti balneari. Tra i più colpiti un'attività nei pressi del castello di Miramare. Lì da stamattina stanno operando decine di volontari per ripulire il fondale che porta ancora i segni della mareggiata. Siamo allo stabilimento balneare conosciuto dai triestini come Sticco, che è uno dei simboli della mareggiata di ottobre-novembre, una delle zone più danneggiate da questo evento atmosferico estremo. E oggi c'è un'associazione, una società sportiva Mare Nord-Est, che con 40 volontari, di cui una ventina di subacquei, sta operando con una pulizia molto radicale anche a diverse decine di metri dalla linea di costa. Che cosa state trovando sott'acqua? Lo chiediamo a Edoardo Natelli, presidente di Mare Nord-Est. Buongiorno a tutti. Cosa stiamo trovando sott'acqua? Tutto quello che c'era da Sticco, dall'esdraio ai carrelli per portare l'esdraio, alle friggitrici, ai piatti, alle ceramiche dei bagni, porte, di tutto di più. C'è un mare lì sotto veramente di roba che dobbiamo assolutamente tirar fuori. L'acqua è entrata un po' ovunque in questo stabilimento, ha devastato porte, ha devastato la cucina, danni immensi, e le conseguenze, insomma, le vedete in maniera molto chiara. Come sta cambiando il mare del Golfo di Trieste, che voi conoscete così bene, con questo clima mutevole? Ma sta cambiando perché ci siamo accorti che gli eventi sono più estremi. Nel senso che la quantità di pioggia che cade è sempre la stessa, solo che dove una volta cadeva in un mese, ora cade in un'ora, quindi si può solo immaginare l'intensità. E questo ovviamente ci ha colto un po' impreparati, cioè, perché ovviamente qui, avendo una struttura a mare dove poteva proteggere la costa, avremmo limitato i danni. Però ecco, siamo appena agli inizi di questo cambiamento. Bisogna adattarsi. Bisogna adattarsi, bisogna prevenire e bisogna renderci conto che se non si prendono delle azioni serie, di questi stico, concedetemi il termine, ne avremo di più. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. L'economia, crescono le nuove partite IVA in regione. Nel 2023 ne sono state aperte 8.329, ben 269 in più rispetto all'anno precedente, un aumento del 3,3%. Lo rende noto l'IRES su dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze. La regione è ai primi posti a livello nazionale, dopo Valle d'Aosta e Lombardia, ma con dinamiche differenti sul territorio. Crescono la provincia di Udine più 4,8% e di Pordenone più 6%, e calano, anche se poco, Trieste meno 0,2% e Gorizia meno 1,1%. La fascia d'età più in crescita va dai 51 ai 65 anni, più 12,1%. Calano gli over 65, meno 21,6%. Ebbene, anche che i giovani under 35, che nell'ultimo biennio rappresentano quasi il 50% delle nuove aperture, anche grazie al regime forfettario. Tra i settori crescono le aperture legate alle professioni, come notai e architetti, ma anche consulenti e PR. Diminuiscono l'edilizia, quasi 100 aperture in meno, e l'agricoltura con un meno 2%. Infine, l'impennata nell'ambito dell'istruzione è pari a più 70% in un solo anno. E continua a diminuire l'incidenza percentuale dell'economia non osservata, cioè quella costituita dal sommerso economico, dall'economia illegale, dal sommerso statistico e dall'economia informale in rapporto al PIL del Friuli Venezia Giulia. Se nel 2014 era al 12,8%, nel 2021, ultimo dato disponibile, è scesa al 9,4%. In termini assoluti sono stati sottratti al fisco quasi 1,5 miliardi di euro. A dirlo è l'ufficio studi della CGA. Questo significa che nel 2021, per ogni 100 euro versati dai contribuenti del Friuli Venezia Giulia all'erario, 9 euro sono rimasti nelle tasche degli evasori. In Italia solo la provincia autonoma di Trento, la Lombardia e la provincia autonoma di Bolzano presentano un livello di fedeltà fiscale superiore a quello del Friuli Venezia Giulia. Secondo i dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel 2021 l'evasione tributaria e contributiva presente in Italia era pari a 83 miliardi e 600 milioni. Il dato complessivo è sceso di oltre 24 miliardi rispetto al 2016. In Italia l'ufficio studi della CGA stima che l'evasione fiscale sia dell'11,2%. La cronaca: era caduto in mare con l'acqua alla gola, per non affogare si teneva aggrappato ai mitili alla base del molo Pescheria a Trieste. Per fortuna lo hanno visto 3 agenti della Polizia di Frontiera Marittima, che avevano appena iniziato il servizio di controllo dell'area portuale, e lo hanno salvato issandolo a forza sulla banchina. È successo giovedì mattina. L'uomo, un pensionato triestino appassionato di pesca, aveva evidenti segni di assideramento e spasmi dovuti all'ipotermia. Soccorso dagli operatori del 118, ha riferito di essere caduto accidentalmente nel tentativo di impedire che la propria attrezzatura finisse in mare e di essere rimasto immerso nell'acqua gelida per diversi minuti, senza che nessuno rispondesse alle sue richieste di aiuto. La polizia ha arrestato a Trieste un cittadino tunisino per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e per resistenza a pubblico ufficiale. La volante del commissariato Duino Aurisina, durante un posto di controllo sul raccordo autostradale, ha fermato l'auto su cui l'uomo viaggiava con un cittadino italiano. Durante l'identificazione, il giovane tunisino ha tentato di nascondere un involucro di celofan contenente della sostanza bianca. Alla richiesta di uscire dal veicolo, il giovane ha tentato la fuga. Fermato, è stato perquisito, gli è stato sequestrato il pacchetto che conteneva oltre 75 grammi di cocaina. L'uomo è stato portato in carcere. Voltiamo pagina. La Federazione Italiana Scuole Materne di Pordenone festeggia i suoi 45 anni di attività educativa a favore di bambini e famiglie. Anniversario ricordato a Pordenone con un incontro pubblico per riflettere sul presente e futuro del sistema delle scuole dell'infanzia paritarie di ispirazione cristiana. Già oltre 200.000 bambini da 0 a 6 anni hanno frequentato la rete di 50 scuole paritarie non profit della Federazione Italiana Scuole Materne di Pordenone nei 45 anni della sua storia educativa. I nidi, le sezioni primavera e scuole dell'infanzia sparsi sul territorio e gestiti da parrocchie, fondazioni, associazioni di genitori riuniti nella FISM ogni anno contano più di 4.000 iscritti e danno lavoro a circa 400 persone, presidi dalla forte valenza sociale, di ispirazione cristiana, ma aperti a piccoli di ogni confessione religiosa e inclusivi. Una realtà nata su stimolo della CEI e cresciuta nella comunità, resilienti alle difficoltà e ai rapidi cambiamenti, richiamati oggi dai vertici FISM al momento di festa nell'anniversario della sua fondazione, occasione per sentirsi una grande famiglia, per ricordare quanto di positivo è stato fatto per l'educazione dei più piccoli e riflettere sulle prossime sfide, a cominciare dalla richiesta che giunge dai genitori: sono molto fragili e sempre di più ci chiedono un sostegno alla genitorialità che passa anche per la flessibilità degli orari, osserva la Presidente FISM provinciale Maria Antonietta Bianchi Peter. L'inverno demografico non ha finora inciso sulle iscrizioni, non mancano i posti e ci sono liste d'attesa per i nidi, segnala ancora Bianchi Peter, che ricorda: il sistema delle scuole paritarie è parte del sistema pubblico, ma è sostenuto dalle rette delle famiglie, che si è riusciti a contenere grazie a nuovi fondi comunali, regionali e del governo, quest'anno incrementati. Un passo importante per colmare il gap che esiste tra scuola statale e paritaria, osserva Giampiero Redaelli, presidente della FISM nazionale, che in Italia raggruppa 9.000 realtà educative e quest'anno compie 50 anni. Strategico l'imminente passaggio a enti del terzo settore, afferma Redaelli, rilanciando l'obiettivo per il primo futuro: essere seminatori di fiducia e speranza perché i bambini possono ancora sognare. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Non solo set sempre più apprezzato di film e fiction TV, a Trieste cominciano a trovare posto anche altre fasi della produzione cinematografica e da ieri in città c'è uno dei direttori di casting più noti in Italia. Sentiamo. Il cinema è sempre più interessato a girare film e serie TV in Friuli Venezia Giulia, ma spesso le produzioni partono da Roma e arrivano qui al completo di maestranze, staff e di casting di attori già conclusi. Per dare spazio e opportunità anche agli attori locali, da un mese si è insediata a Trieste una società cinematografica veneta, la K+, che ha aperto una sede in riva Tommaso Gulli. Va nella stessa direzione l'attore Antonio Veneziano, spesso a Trieste, ha fondato una compagnia che rappresenti la categoria e ha invitato in città il re dei casting, Pino Pellegrino, che fin dagli anni 70 ha lavorato con registi come Fellini, Monicelli, Zeffirelli e Ozpetek. Ieri ha presentato al Caffè San Marco la sua autobiografia e da questa mattina Pino Pellegrino sta facendo la conoscenza di una dozzina di attori regionali al ridotto del Teatro Miela in una sorta di evento scouting. Cerca i protagonisti di una serie TV per ora top secret. L'ambizione è quella di incoraggiare sempre più spesso i talent scout del mondo del cinema e del teatro a trovare direttamente qui i professionisti che cercano e non solo le location che questi territori offrono. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Alle 12:44 minuti, uno sguardo alla situazione meteo: il cielo è da sereno a variabile su pianura e costa, da poco nuvoloso a variabile in montagna. Le temperature registrate alle 11 a Trieste 7 gradi, a Gorizia 12, a Udine 11 gradi, a Pordenone 7 gradi e 5 decimi. Sul Piancavallo è a Forni di Sopra 12 gradi e mezzo, a Tolmezzo 11 gradi e 5 decimi, a Tarvisio 10 gradi, a Sappada 8, sul Monte Zoncolan 8 gradi, sul Lussari 7 e mezzo, sulla costa Lignano 7 gradi. E queste invece le previsioni per oggi: ci sarà cielo variabile per nubi medio-alte a tratti consistenti. E adesso lo sport. Trieste, capitale del volley femminile, con la fase finale di Coppa Italia al via nel pomeriggio. È il grande giorno delle Final Four di Coppa Italia, si comincia nel primo pomeriggio con la partita tra Limoco, Conegliano e Chieri, Palasport che sarà pieno, almeno più di 5.000 gli spettatori previsti per questa prima partita. Siamo con Marco Fantasia che commenterà per Rai Sport, la prima diretta su Rai Play, ricordiamo, a partire dalle ore 15. Che partite ci aspettano? Vedremo le più forti giocatrici del mondo. Sì, è vero, sono quattro delle cinque migliori formazioni del nostro campionato che danno sempre spettacolo nei loro scontri diretti. Conegliano favorita, prima in classifica in regular season, Chieri però in un buon momento di forma e può provare qualche scherzetto. La seconda semifinale è assolutamente incertissima. Una partita alle ore 18 che vedrà giocare l'Allianz Milano, il vero volley, contro la Savino del Bene Scandicci, due squadre che hanno una forte rivalità e che ambiscono a togliere lo scettro a Conegliano, che ha vinto le ultime quattro edizioni. Sì, assolutamente. Milano ha rinforzato tantissimo la sua squadra quest'estate con l'arrivo di Paolo Egonu, ma anche Scandicci non è stata da meno, con alcune campionesse di grandissimo valore. Quindi per il momento la tradizione più recente dice Milano, che ha vinto i due scontri di campionato e le due semifinali dei playoff scudetto dell'anno scorso, però Scandicci ha tutte le carte in regola per giocare un brutto scherzo e qualificarsi. Però la cosa più bella probabilmente è il contorno di pubblico in questa regione e a Trieste in particolare. Il grande volley, a parte la nazionale che abbiamo visto qualche volta, manca, e quindi sarà un'occasione per vedere veramente uno spettacolo a cui forse questa regione non è abituata. È vero, ovviamente aspettiamo Trieste, ma tutto il Friuli Venezia Giulia alla Serie A1. C'è Talmassons che si sta battendo, peccato per Martignaco che è stato in A2 fino all'anno scorso, però appunto è un territorio che va rappresentato anche nella massima serie. Appuntamento quindi su Rai Play a partire dalle ore 14:50, a seguire la seconda semifinale che andrà in onda su Rai Sport alle ore 18. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia, Trieste. Il basket in A2, la Gesteco affronta fuori casa Treviglio nella sua prima trasferta della fase orologio, inizio alle 20:30 al Palafacchetti. È impegnata fuori casa anche Trieste, che dopo 5 sconfitte nelle ultime 6 gare cerca una scossa a Cantù al Paladesio, anche questa alle 20:30. Nel basket femminile la Wimena Pudelser Udine giocherà sul parquet del Matelica alle 18:30 e alle 19 la futurosa Trieste sarà in trasferta ad Ancona. Biathlon, penultima gara questo pomeriggio per Lisa Vittozzi ai mondiali di Novemesto. La sappadina sarà l'ultima frazionista dell'Italia a partire nella staffetta femminile 4x6 km, che prima vedrà schierate Samuela Comola, Dorotea Wierer e Rebecca Passler. Il quartetto azzurro dovrà difendere l'oro conquistato lo scorso anno al mondiale di Oberhof, impresa che si preannuncia difficile ma non impossibile, visto l'ottimo stato di forma del team francese, con la punta di diamante Giulia Simone, senza perdere di vista le quattro norvegesi sempre insidiose con Ingrid Thunderevold. La gara inizierà alle 13:45 con diretta su Rai Sport HD. A preparare gli sci stretti per il team azzurro del biathlon è stato chiamato da alcuni anni il carnico Giorgio Di Centa, campione olimpico di sci di fondo con ben 2 medaglie d'oro conquistate ai giochi invernali di Torino nel 2006. Un incarico di cui il campione di Paluzzo va orgoglioso. Lo ha incontrato a Novemesto Luca Di Bella di Rai Sport mentre era intento a sistemare le ultime scioline per la corregionale Lisa Vittozzi. È stato oro olimpico a Torino sulla 50 km di fondo e poi alfiere azzurro ai giochi di Vancouver. Ha recitato da protagonista sui palcoscenici più importanti. Oggi Giorgio Di Centa ha un ruolo dietro le quinte, skimmer della nazionale di biathlon, che interpreta con la modestia del campione che allo sport ha ancora cose da dire e da dare. Io sono fatto così, mi piace vivere dietro le quinte, poi chiaramente se mi dicono ma tu sei campione olimpico così, chiaramente un piacere, però mi piace viverla così serenamente assieme a tutti gli addetti ai lavori. Essere coesi fra di noi, risolvere problemi, ragionare, e anche il bello di questo mestiere poi conquistare la medaglia, e là veramente dici beh ci siamo, e ripeto, dopo non pesa neanche più star via da casa. I tecnici dei materiali lavorano in un pullman attrezzato che è quasi casa, a ridosso delle piste della Visocina Arena. Un lavoro oscuro ma fondamentale per mettere gli atleti nelle condizioni di esprimere il massimo del potenziale. Per Dicenta, che questo mondo l'ha vissuto prima da atleta, respirare un mondiale anche da skimen è sempre esaltante. Un'emozione diversa e tanta soddisfazione, perché mi piace fare questo lavoro. E qui di nuovo, specialmente dopo diciamo l'oro di Lisa, è tornata nel momento della premiazione, mi è tornata a scappare lacrimuccia e non mi vergogno a dirlo. E adesso torniamo agli spettacoli, alla musica, con lo spettacolo in scena al Teatro Verdi di Trieste, una complessa opera di Richard Strauss, proposta anche in diretta su Radio 3. Un'opera che ne contiene almeno tre, ciascuna con il suo linguaggio specifico. Ariadne auf Naxos di Richard Strauss, datata 1916, è la storia di un ricco signore che vuole offrire ai convitati di una festa uno spettacolo musicale di alto livello, ma temendo che la gente si annoi, tramite il suo maggiordomo impone al regista scritturato per l'occasione di fondere la storia classica di Arianna a Naxos con uno spettacolo da commedia dell'arte. Ne nasce un complesso gioco prima ancora musicale che scenico, che parla al cervello prima ancora che al cuore. Proposta di repertorio tutt'altro che banale, quindi, quella fatta dal Teatro Verdi di Trieste al suo pubblico come quarto titolo della stagione. I tre piani del racconto vengono resi con rispetto e fantasia dal regista Paul Curran, che li differenzia con la luce e i colori senza paura di sottolineare con un bel rosa shocking i comici dell'arte e la zerbinetta in particolare. Chiamato a mettere in luce le sfaccettature musicali di una partitura complessa, il maestro Enrico Calesso, alla guida dei complessi del Verdi e di un folto cast di solisti nel quale spiccano le prime donne Simone Schneider e Lyudmila Lokaciuk. Per lo spettacolo di ieri anche la storica vetrina di Radio 3, che ha proposto l'appuntamento in diretta nazionale. Per risentire tutto basta andare su RaiPlay Sound. Trieste, Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia. Un appuntamento a Udine, l'incontro di presentazione dell'attività dell'associazione di volontariato Yobel ODV, nata per aiutare le persone con disagio psichico in Africa. Nel corso dell'evento saranno illustrate le attività di Grégoire Ahongbonon, che in Costa d'Avorio ha fondato l'associazione Saint-Camil dell'Ellisse, che ha aiutato finora 100.000 persone con problemi mentali. Alle 17.30 alla Chiesa del Cristo dell'Oratorio Parrocchiale di Via Montebello a Udine. Ed ora le nostre rubriche. Domani sul terzo canale televisivo Rai alle 11.05, Est-Ovest, curata dalla nostra redazione, dedicata all'approfondimento di quanto avviene nei paesi dell'Europa orientale. Il sommario. La missione dei soldati italiani in Ungheria, una presenza militare nel quadro della NATO che garantisce sicurezza all'Europa. La Polonia vuole far tornare a casa i propri giovani emigrati, le leve sono buoni stipendi e basso costo della vita. La società serba sta facendo i conti con la propria cultura della violenza, i pacifisti contro il culto dei criminali di guerra. Damir Ovcina, romanziere di Sarajevo, racconta le paure e i traumi subiti dai bosniaci durante la guerra etnica degli anni 90. A Vienna, al Museo Dolce e Amaro del Cioccolato, richiama ogni giorno decine di turisti affascinati dalla tentazione nera. Tutto questo a Est-Ovest, domenica alle 11.05 su Rai 3. E sempre domattina, ma su queste frequenze, il nuovo appuntamento domenicale con Vita nei Campi, trasmissione dedicata ad agricoltura, ambiente ed enogastronomia. Vita nei campi, il settimanale radiofonico di agricoltura della nostra redazione in onda la domenica alle 8.50 su Radio 1 Rai. Domani in apertura la fusione delle cantine di Casarsa e Conegliano Vittorio Veneto. A seguire la storia di Angelo Floramo racconta dei digiuni quaresimali e dei doni che la natura ha dato per contrastare la fame. Prima puntata poi sulla scelta degli alberi da frutto per impianti casalinghi, di scena il melo. E ancora nella rubrica dei sommelier i vini aromatizzati con una scheda sul vermouth, anche per le uova ci sono particolari attenzioni per garantire un'ottima conservazione e descrizione e consigli per l'allevamento degli anemoni, conosciuti anche come i fiori del vento. In conclusione, andamento dei mercati agricoli, previsioni del tempo e il proverbio friulano. Appuntamento domani alle 8.50 su Radio 1 Rai con Vita nei Campi. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio regionale. Alla parte tecnica Roberto Cavallari e Giampaolo Zucchi. In segreteria ha collaborato Laura Sarasini. Da Dario Ronzoni e Rita Micoli grazie per l'ascolto e l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.